ad alta voce. Valerio Aprea legge Alberto Moravia. Sciupone. Con mia moglie in tutto andavamo d'accordo, fuorché sul capitolo denaro. Avevo un negozio di fornelli, stufe e accessori elettrici in un quartiere non tanto signorile come San Giovanni e perciò il denaro non era mai sicuro. C'erano i giorni buoni, in cui vendevo un fornello da 40.000 lire. C'erano quelli cattivi, in cui non vendevo che una lampadina da 300 lire. Ma questo Valentina non voleva capirlo. Secondo lei ero avaro. E la mia avarizia consisteva nel fatto che tenevo i conti di cassa, segnavo le entrate e le uscite, e quando non ce li avevo, le dicevo appunto che non ce li avevo. E allora lei gridava: «Sei un avaro! Ho sposato un avaro!» Io le rispondevo: «Ma perché dici che sono un avaro? Così, senza averne le prove. Perché non vieni a negozio? Perché non vieni in banca? Ti farei vedere quello che vendo e non vendo. Ti farei vedere quanto è calato il mio conto.» Lei rispondeva che in negozio non ce l'avrei mai veduta, perché lei non era una bottegaia e suo padre era stato finanziario statale. Quanta la banca non ci sarebbe venuta perché non ci capiva niente e perciò la lasciassi tranquilla. Poi spiegava, quasi affettuosamente: «Vedi, Augusto, tu sei avaro. Magari spenderai tutto quello che hai, magari farai dei debiti, ma sei avaro. Avaro non è chi non vuol spendere, avaro è chi gli dispiace spendere.» «E chi te l'ha detto che mi dispiace spendere?» «Fai sempre una certa faccia quando si tratta di cavare i soldi.» «Ma quale faccia?» «La faccia dell'avaro.» In quel tempo io ero innamorato di mia moglie. Rotonda, bianca e rosa, appetitosa, fresca, Valentina era in cima a tutti i miei pensieri. E non trovavo niente da ridire che passasse la giornata senza far nulla, a fumare sigarette americane, leggere i giornali a fumetti e andare al cinema con le amiche. Amandola come la amavo, mi pareva che lei fosse sempre dalla parte della ragione e io da quella del torto. L'avarizia, non c'è che dire, è un brutto difetto. E io, sentendomi sempre dire che ero avaro, avevo finito per crederci e mi ero convinto anch'io che lo ero. Così, invece di risponderle: «Ma piantala con questa faccenda dell'avaro, e poi avaro o no, soltanto io so quanto possiamo spendere», bastava che lei dicesse: «Eccolo, l'avaro», perché terrorizzato cavassi fuori i soldi e pagassi senza fiatare. Così lei, che aveva capito ormai questa mia debolezza, non mi lasciava bene avere. «Augusto, ci vuole la radio, tutti ci hanno la radio.» «Ma Valentina, costa cara la radio.» Non farmi lavare adesso con tutti quei soldi che hai in banca, vorresti dirmi che non puoi comprarti la radio?» «E va bene, compriamo la radio.» Oppure: «Augusto, ho visto un paio di scarpe tanto belle, mi dai i soldi?» «Ma se ancora l'altro giorno ne hai comperate un paio.» «Ma quelli erano sandali, su, non far l'avaro.» «Beh, ecco i soldi.» Insomma, aveva trovato il modo di farmi pagare e tacere. Infallibile, e non sbagliava mai. Io pagavo perché speravo che un giorno, finalmente, lei riconoscesse che non ero avaro, che anzi, ero generoso, come mi sembrava di essere. Ma questa era un'illusione e mi passò presto. Infatti, più spendevo e più per lei ero avaro. Forse lei capiva che spendevo per un impegno dell'orgoglio, per farle cambiare idea e spuntarla con la sua ostinazione a considerarmi avaro. E anche lei, per puntiglio, non voleva darmela vinta. Ma forse era soltanto la sua stupidità. Si immaginava che le nascondessi chissà quali ricchezze, proprio come fanno gli avari veri, che quando hanno 100 vanno lamentandosi in giro che hanno soltanto 10. Del resto aveva ragione lei, dicendo che mi dispiaceva spendere. Mi dispiaceva perché sapevo quanto avevamo e sapevo pure che di questo passo presto non avremmo più avuto niente. Mi ero sposato con il negozio avviato e un conto in banca di quasi 1 milione. Adesso, per quanti sforzi facessi, e sebbene non portassi più denaro alla banca e passassi tutto il guadagno a casa, il conto diminuiva di mese in mese, sempre più. Prima 900.000, poi 800, poi 700, poi 600. Era chiaro, spendevamo più di quanto guadagnassi, e di questo passo, in un anno al massimo, il conto si sarebbe esaurito. Decisi che a 500 mi sarei fermato e gliel'avrei detto. Devo dire che aspettavo quel giorno quasi con ansietà. Mi rendevo conto che se quel giorno non riuscivo a puntare i piedi, ero perduto. Intanto il tempo passava e il conto diminuiva. Erano 600.000 lire, poi 550, poi 525. Una di quelle mattine ritirai 25.000 lire. Andai a casa e dissi a Valentina: «Guarda, li vedi? Sono 25 biglietti da 1.000. Lei disse: «Beh, perché me li fai vedere? Vuoi farmi un regalo?» «No, non voglio farti un regalo». «Figurarsi, tu farmi un regalo, sarebbe troppo bello». «Aspetta, te li faccio vedere, perché sono gli ultimi». «Non ti credo». «Eppure è vero. Vuoi dirmi che tu non ci hai più i soldi in banca?» «Ce li ho, ma sono il minimo per un commerciante come me. Se spendiamo anche quelli, posso chiudere bottega». «Oh, vedi che ce li hai. Allora perché mi tormenti? Lasciami in pace. E poi non vuoi che ti dica che sei avaro?» Avevo giurato di restar calmo, ma a quella parola di avaro saltai su inviperito. «Non sono avaro! Spendiamo più di quanto guadagniamo, ecco tutto! Ma perché non ci vieni a negozio? Perché non ci vieni in banca? Lasciami in pace con la tua banca e il tuo negozio! Fa quello che vuoi, se ti fa piacere di essere avaro, sii pure avaro, ma lasciami in pace. Cretina!» Era la prima volta da quando eravamo sposati che li insultavo. Avete mai veduto il fuoco saltar su da un po' di petrolio se ci avvicinate un fiammifero? Così Valentina, sempre così calma e perfino indolente, a quella parola che mi era sfuggita. Prese a ingiuriare. E più mi ingiuriava e più trovava nuove ingiurie, quasi che una tirasse l'altra come le ciliegie. Bisogna dire che ce l'avesse con me da un pezzo e che quello che mi andava dicendo l'avesse rivoltato in mente non so quanto tempo. Non erano poi ingiurie semplici, brutali, da uomo, come canaglia, farabutto, mascalzone, che in fondo non fanno male a nessuno. No, erano ingiurie da donna. Sottili, di quelle che ti entrano dentro come aghi e poi ci rimangono, e più tardi, se ti muovi, te li senti pungere il diavolo sa dove. Ingiurie che riguardavano la famiglia, il mestiere, il fisico. Non ingiurie proprio, ma frasi cattive, rigirate in modo perfido, da lasciare senza fiato. Non la conoscevo, Valentina, e se non avessi provato tanto dolore sentendola parlare in quel modo, avrei potuto anche meravigliarmi. Basta, andò a finire che lei si calmò, finalmente, e io, un po' per la mortificazione, un po' per la stanchezza di quella scena così lunga, mi misi a piangere come un bambino, inginocchiato davanti a lei, la faccia contro le sue gambe. Ma pur piangendo e domandandole perdono, sentivo che era finita e che non l'amavo più. We'll be right back. E questo pensiero per me era così amaro che riprendevo a piangere di nuovo più forte di prima. Alla fine smisi di piangere, le diedi 5.000 lire in regalo e me ne andai. Mi restavano 20.000 lire, ma non amavo più mia moglie e per ripicca ero deciso a mostrarle che non ero avaro. Dovessi per questo andare in rovina. Però, prima di fare quello che avevo in mente, provai un dubbio, un'esitazione, quasi un terrore. Come quando al mare uno va per tuffarsi e l'acqua che si muove laggiù in fondo sotto i suoi piedi gli fa paura. Mi trovavo sul Lungotevere, dalle parti di Ripetta, con un sole di primavera che scaldava dolce, senza bruciare. Vidi a capo di un ponte un mendicante che sporgeva il viso verso questo sole, pur tendendo la mano, accoccolato in terra. E vedendo questo viso così contento, con gli occhi socchiusi e la bocca quasi sorridente, pensai: ma di che hai paura? Quando anche diventassi come lui, saresti sempre più felice di adesso. Allora strinsi in pugno tutti quei fogliacci da 1.000 che avevo in tasca e passando gliene buttai uno nel cappello. Siccome era cieco, non mi ringraziò e continuò a tendere il viso al sole, ripetendo le solite parole che dicono i mendicanti. Poco più su, dopo il ponte, c'era un negozio di orologi. Ci andai e lì per lì, senza esitare, comprai un orologio per mia moglie, del valore di 18.000 lire. Mi restavano 1.000 lire, ci presi un taxi e mi feci portare al negozio. Già mi sentivo meglio, sebbene un po' di paura mi restasse, ma mi rinfrancai rifiutando per tutto il mattino la roba ai clienti. A chi dicevo che l'articolo era esaurito, a chi domandavo un prezzo eccessivo, a chi spiegavo che l'articolo ce l'avevo ma non era in vendita, perché era un campione. Mi presi anche il lusso di trattare male un paio di clienti, di quelli proprio antipatici. Intanto continuavo a ripetere dentro di me: niente paura, il primo passo è il più difficile, poi tutto viene da sé. Tornai a casa quella mattina quasi temendo di scoprire che dopo tutto amavo ancora mia moglie. Lo temevo perché allora avrei dovuto ricominciare a lottare per il centesimo, a sentirmi dare dell'avaro e insomma a rifare la vita che avevo fatto in quegli ultimi 2 anni. Ma come la guardai, mi accorsi che proprio non l'amavo più. Mi sembrava un oggetto. Notai perfino che sotto la cipria ci aveva il naso un po' lustro. Le dissi: cara, ti ho portato un regaluccio. Siccome ti lamentavi sempre di non avere un orologio da polso, mi diede il polso e io, prima di affibbiarci l'orologio, ci misi su un bel bacio sonoro, proprio da marito innamorato. Ma intanto pensavo: prendi su, questo bacio è più falso di quello di Giuda. Quel giorno bisogna dire che lei avesse rimorso di tutte le brutte cose che mi aveva detto, perché fu tutta svenevole e graziosa, ma io non sentivo più nulla. Dentro la molla dell'amore mi si era rotta e non c'era più niente da fare. I giorni appresso continuai ad eseguire il mio piano. Non passava giorno che non le facessi qualche regalo. Al negozio rifiutavo persino di ascoltare i clienti, dichiarando fin da principio: non vendo niente. Intanto il conto in banca diminuiva. 500.000 poi non è una gran somma, in capo a 2 mesi o poco più non mi restava quasi più nulla. Valentina non si insospettì, continuava a leggere le riviste, a fumare sigarette americane, ad andare al cinema con le amiche. Soltanto ogni tanto, pro forma, ad un nuovo regalo diceva: lo vedi che avevo ragione io quando dicevi che non avevi soldi ed eri povero e non ce la facevi più. Ora spendi molto di più, sei, non dico generoso, ma perlomeno meno avaro, e i soldi li trovi lo stesso. Io non dicevo nulla, ma dentro di me ripetevo: aspetta prima di cantar vittoria. Uno di quei giorni ritirai alla banca le ultime 5.000 lire e ci comprai tanti pacchetti di sigarette americane in modo da rimanere con non più di 300 lire. Era mattina presto e invece di andare al negozio tornai a casa, andai in camera da letto e mi distesi, vestito com'ero e con le scarpe ai piedi sulle lenzuola ancora disfatte. Valentina, che dormiva, si rivoltò nel sonno dicendo: non vai a negozio? È domenica oggi. E si riaddormentò. Cominciai a fumare una sigaretta dopo l'altra, aspettando che lei si destasse. Lei dormì ancora un'ora, poi si svegliò e domandò subito: «Ma che è festa oggi?» E io risposi: «Sì, è festa». Allora lei si alzò e si vestì lentamente, parlando poco e spesso domandando: «Ma che festa è?» Come se avesse presentito che non era festa affatto. Io aspettavo il momento che lei mi domandava i soldi per la spesa. Era lei, con tutta la sua pigrizia, che faceva la spesa e poi cucinava, facendosi aiutare da una ragazzina a mezzo servizio. Lei andò nel bagno, finì di vestirsi, e poi andò in cucina e parlò con la servetta e preparò il caffè. Mi levai finalmente dal letto e andai anch'io in cucina. Prendemmo il caffè in silenzio, salvo che lei insistette: «Ma che festa è? Lucia dice che non è festa e che tutti i negozi sono aperti». Allora risposi con semplicità: «Oggi è la festa mia». E me ne andai in camera da letto, dove mi distesi di nuovo sulle lenzuola, con le scarpe e tutto. Lì per lì Valentina non disse nulla, restando un pezzo in cucina a parlare con la servetta e, come credo, a darmi tempo per mostrare che non mi prendeva sul serio. Finalmente si affacciò sulla soglia, le mani sui fianchi, e disse: «Se non ti va di lavorare, non discuto, sei padrone di restartene a letto, ma se ti va di mangiare, devi darmi i soldi per la spesa». Gettai fumo al soffitto e risposi: «Soldi? Non ne ho». «Come non ne hai?» «Non ne ho». Lei disse allora: «Senti, che capricci sono questi? Che ti salta in testa? Se non mi dai i soldi, io la spesa non la faccio. E se non faccio la spesa, non mangiamo». «Infatti», risposi, «credo proprio che non mangeremo». «Beh», disse lei, «vado di là. Non ho tempo da perdere. Metti i soldi sul comodino». Io continuai a fumare e quando lei tornò, dopo qualche minuto, dissi con sincerità: «Valentina, parlo sul serio. Non ho più un soldo. Mi restano in tutto 300 lire. Non ho più niente». «Tu hai il tuo conto in banca. Che avarizia ti ha preso ora?» «Non sono avaro. Non ho più niente. Guarda del resto». Cavai di tasca il libretto della banca e glielo mostrai. Questa volta lei non disse che non se ne intendeva e che la lasciassi in pace. Aveva capito che facevo sul serio e mostrava un viso spaventato. Guardò il libretto e poi si lasciò cadere su una seggiola senza fiato. Spiegai: «Tu mi dicevi che ero avaro e più spendevo più per te ero avaro. Allora mi sono rovinato apposta. Ho speso tutto. A negozio non ho più voluto vendere e adesso è finita. Non ho più niente e non abbiamo manco da mangiare. Ma almeno non potrai dirmi che sono avaro». Lei, tutta ad un tratto, si mise a piangere, più come pareva perché sentiva che non l'amavo più che per il fatto in sé. Poi disse: «Non mi hai mai voluto bene e adesso mi fai anche mancare da mangiare». «Per forza», dissi, «non ci ho i soldi». Lei disse: «Io ti lascio, me ne vado da mamma». «Arrivederci!» Se ne andò nell'altra stanza e, insomma, anche dalla mia vita, perché da quel mattino non l'ho più rivista. Dopo un poco mi alzai dal letto e uscii anch'io. Era una giornata di sole, comprai uno sfilatino e andai a mangiarmelo sul Lungotevere. Guardando l'acqua che scorreva, mi sentii ad un tratto felice e pensai che quei 2 anni di matrimonio non erano stati che un'avventura senza conseguenze. Quando fossi stato vecchio me ne sarei ricordato non come di 2 anni, ma come di 2 giorni. Mangiai piano lo sfilatino e poi mi attaccai alla bocchetta di una fontanella e bevvi. Più tardi andai da mio fratello e gli domandai di ospitarmi finché avessi trovato lavoro. Lo trovai, infatti, da semplice elettricista, di lì a qualche settimana. Valentina, come ho detto, non l'ho più rivista. Ma sapete che va dicendo? Che sono uno sciupone dalle mani bucate, che lei non ce la faceva a farmi risparmiare e così mi ha lasciato. Valerio Aprea ha letto Alberto Moravia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it